fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ma che ci siamo, la voce da questa postazione di Alex Angioletti. Buonasera a tutti, benvenuti al convento. La radio è in funzione, siamo in diretta con Risto Radio Convento in questo momento dall'acquario, sì, dalla diretta. Sentirete la voce di una bella fanciulla che è entrata in questo istante in studio. È entrata in questo istante. E sarà intervistata e riascoltata in questo istante da tutto il mondo, tutto il web. Grazie a Risto Radio Convento. Siamo, guarda, guarda in quanti ci stanno fotografando in questo momento. Mamma mia, siamo in... Sei già emozionata? Prova. Ti senti? Io mi sento molto bene. E lo sai bene. Che ci sente anche un po' di altra gente, lo sai. Ma non solo ci sente, ci vede anche, sono tantissimi. Ci vedono, ci stanno fotografando, sono in tantissimi. Questo è il nostro Risto Radio Convento. Noi siamo in diretta radio e abbiamo a disposizione 5 minuti per raccontarci e per raccontare. 5 minuti sono tantissimi. Sono tanti da riempire, ma con questo sorriso io potrei dirvi, non abbiamo azionato le nostre videocamere perché vogliamo lasciare sempre un po' di suspense quello che succede qui dentro. Vedi come sono tutte curiose le tue amiche. Hai visto, si chiederanno ma cosa staranno dicendo, ma chi ti ha rapito, si chiederanno. Donato del Garda. Ma chi era questo? Allora, il nostro DJ Alex Angioletti ci sta annunciando che c'è questa intervista con il tuo nome? Elena. Arrivi da? Como. Elena che arriva da Como, ragazzi miei, Elena è bellissima. È sabato. È bellissima. E faccio bene a sposarmi allora. Guarda, io non lo so, non mi esprimo, non dico nulla. Però dimmelo tu, fai bene a sposarti. Sì, dai ragazzi, non mettetemi dubbi stasera. No, stasera non ti metteremo dubbi assolutamente, vorremmo solamente sapere cosa ti ha spinto a fare questo passo. L'amore, beh, la risposta è banale, dai. Tu sei convinta che l'amore esista tutta la vita? Può esistere tutta la vita. Bisogna impegnarsi un po', bisogna essere bravi, bisogna crederci soprattutto, ma sì, dai. Hai ragione, bisogna essere bravi, bisogna crederci, può durare tutta la vita e in qualsiasi momento della vita può arrivare. Questa è una grande verità e perciò dobbiamo crederci assolutamente tutti quanti. E arrivi da Como, come mai al convento all'onato questa sera? Come mai? Ah, questo guarda, dovresti chiederlo alle 15 ragazze che ci sono lì a guardarmi, che mi hanno fatto tutto di sorpresa. Io sono rimasta bendata dal mio lago al vostro lago. Dai. Cioè, quindi non sapevo neanche dove fossi. Che bella. Però questa cosa è bellissimo, il posto è fantastico e quindi sono assolutamente contenta del fatto che mi abbiano portato qua un po' lontano dal mio mondo, così almeno posso dare l'addio allo stato libero. Ma lontano dal tuo mondo come distanza chilometrica o lontano dal tuo mondo come mondo? Cioè un mondo, questo è il mondo della festa. La musica che state ascoltando, no, selezionata da casa da quando sono entrata. Intanto da questo lontano dal mio mondo a livello chilometrico, dai, non tantissimo, radio, però quanto basta. La sposa che tra poco quanto basta per... Allora, raccontaci un pochettino di te, dai, le tue amiche poi saranno curiosissime, potranno riascoltare questa registrazione radio, le tue amiche sono curiosissime, raccontaci due cose di te. Ah, le mie amiche mi conoscono, pensa che tra le mie amiche ci sono ben 2 sorelle, 5 cugine e poi le altre sono tantissime donne, siamo una famiglia numerosa, piena di donne, infatti vedo tanti uomini stasera, spero che anche qualcuna di loro riesca a trovare, chissà, magari l'anima gemella. C'è qualcuna di loro che deve cercare l'anima gemella questa sera? Guarda, c'è la ragazza lì che si chiama Alessia, che è bellissima, ha gli occhi azzurri, chiara, è mia cugina, vi assicuro, una ragazza fantastica. Perfetto, mi hanno già dato il numero di telefono, 347-8596-478. Non è vero, avete scritto, ma non è vero. Non è il numero di Alessia. Magari avere il numero di Alessia, perché Alessia davvero è una ragazza bellissima. Si sta chiedendo, hai visto che faccia fanno? Si sta chiedendo davvero cosa si staranno dicendo. Adesso stanno parlando di me, capito? Vero? Solo e poi, bene, Alessia, e poi solo bene. Stanno parlando bene. E poi qualchedun altro ancora? Prova a dirmi. Qualcun altro che ha bisogno di un uomo? Allora, guarda, quella ragazza lì si chiama Valentina, con quel taglio bellissimo, un capello corto, un occhio intenso. Lei ha appena conosciuto un ragazzo che sì, le piace molto, però è un ragazzo che viene dalla Turchia, è lontano. Io vorrei il nostro che bicchierino musicale invece lo conoscesse così, con un italiano spirito, vero un che sound. Le facesse un po' cambiare che idea. Ci siamo. Benvenuti al un ragazzo vero che potesse farle cambiare idea. Italiano vero. Ah, italiano vero. Italiano Vero, io direi che potremmo fare un annuncio. Allora, facciamo un annuncio. Abbiamo a disposizione un palco di ascoltatori radiofonici nella nostra radio web e ti posso garantire che non sono pochi. E poi durante la settimana i nostri podcast vengono riascoltati e perciò veramente l'ascolto è notevole. Fai un piccolo annuncio per presentare. Tu sei una speaker radiofonica e hai a disposizione 30 secondi, quelli canonici degli spot radiofonici, per, diciamo, promuovere la tua amica Valentina. Allora, vai. Ragazzi, siamo qua, bellissime ragazze. Tra di noi c'è Valentina, ma una ragazza col capello corto, l'occhio intensissimo, conosce quattro lingue, è matta, quindi qualsiasi pazza idea vi viene in mente lei vi segue, perché è una ragazza creativa, una ragazza piena di energie e aspetta soltanto l'uomo giusto che le faccia vibrare il cuore, quindi venite qua. Mamma mia, io mi precipiterei proprio subito, cioè arriverei, volerei, capito? Dopo una descrizione così, una presentazione così, una classe così, eh? E poi anche devo dire una voce, cioè ci sono tanti tanti aspetti veramente molto molto belli e di conseguenza mi precipiterei al convento di Lonato questa sera. Ragazzi, c'è Alessia e Valentina che stanno aspettando l'uomo della vita, correte! Vi aspettiamo assolutamente, ok. Io direi che possiamo concludere, anzi, però una qualità e un difetto tuo. Io, allora, la qualità è sicuramente che sono molto passionale, il difetto è che sono tanto orgogliosa. Passionale ed orgogliosa. Sì, okay. È dura, ragazzi, è dura. È dura. Un difetto e un pregio del tuo futuro marito, come si chiama? Il mio futuro marito si chiama Marco. Marco. Il pregio è che sicuramente è bellissimo, è molto sensibile. Il difetto è che è un po' permaloso. E li stiamo permaloso, festeggiando, però gli stiamo facendo la festa. Allora, però sai, come farete a mettere d'accordo e a far andare bene il permaloso con l'orgoglio, a far andare bene la Stai passionalità con la sensibilità? Stai cercando di qualche dubbio, no, solo un mese di distanza dal grande giorno, ti dà l'impressione che io possa, ti dà l'impressione che io possa volere questo? No, assolutamente, assolutamente no. Ripeti il tuo nome per tutti gli ascoltatori. Elena. Ok, perfetto. Allora io direi che possiamo salutare Elena da Como. L'abbiamo praticamente rapita dall'aperitivo. Descrivici, Elena, quello che stai vedendo in questo momento, sempre per i nostri ascoltatori. Cosa vedi dal nostro studio radio? Cosa tantissima vedi? Tantissima gente, tantissima bella gente, tanti colori, gente con coroncine di fiori, camicie, gente allegra, musica, tanto da bere, tanto da mangiare, ma soprattutto tanta tanta allegria, quindi di più non potevamo chiedere per questa serata. Di più non potevamo chiedere. E pensate bene che siamo solamente, possiamo dare l'orario, sono le 21:32 di questo sabato di Narendense e possiamo dire che siamo solamente all'inizio, cioè siamo ancora nel prologo, è appena iniziato. E come ci piace dire, Elena, ne vedremo delle belle e non finisce qui. Un saluto, ciao Elena. Ciao a voi, grazie mille. Grazie a te, ciao.